Il gastronauta di Davide Paolini. Ebbene, oggi invece della musica solita della sigla ci vorrebbe una musica natalizia, perché buon Natale a tutti i radioascoltatori e a tutti i gastronauti. Bene, oggi sicuramente tutti si accingono a sedersi a tavola e a fare il pranzo di Natale. C'è chi celebra oggi, chi ha celebrato ieri sera, quindi dipende dalle varie parti d'Italia, dipende dalle abitudini familiari. Comunque è sempre festa e speriamo che lo sia anche per tutta la giornata. Ebbene, oggi diciamo che il programma è abbastanza inconsueto, perché faremo un giro di personaggi, di musicisti, di chef, di produttori di vino, di giornalisti, di sportivi, per capire e per sentire da loro un loro Natale, se ricordano un pranzo in particolare, se ricordano un piatto, se ricordano magari il piatto di quando erano bambini, una festa di quando erano bambini. Insomma, faremo una trasmissione ricordo, una trasmissione della memoria. Io credo che le ricette della memoria siano straordinariamente importanti per ricordare. Forse si può ricordare buona parte della nostra vita. E così anche il Natale sicuramente è un momento veramente puntualissimo per i ricordi, perché c'è sempre qualcosa che ci torna in mente magari ai Natali seguenti. Ebbene, oggi iniziamo a parlare di questo da un grande musicista, un grande compositore che in questo momento ha uno straordinario successo, Giovanni Allevi. Buongiorno Allevi. Buongiorno e buon Natale a te e buon Natale a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo. Volevo chiederti innanzitutto, tu sei un buon diciamo divoratore di piatti, di cibo, e un buon degustatore di vino? Dunque, assolutamente sì, la prima parte. Essendo io ansioso, mi butto sul piatto con voracità. Infatti finisco sempre prima di tutti a mangiare, però non bevo il vino, so che mi perdo una meraviglia del genere umano, però vabbè, pazienza. Ma quali sono i tuoi piatti preferiti prima di arrivare al Natale? C'è un piatto magari particolare? Dunque, sono i piatti che prepara mia madre. Qualunque cosa esca dalle sue dita raggiunge vette divine. E quindi sicuramente tu hai qualche pranzo di Natale particolare, tu lo passi a casa di solito il Natale? Sì, io sono a casa con i miei adesso, che bello, però c'è un pranzo di Natale che per me è indimenticabile ed è esattamente il pranzo di Natale del 1991, ero nella caserma a fare il militare e siccome ero stato punito insieme ad un altro manipolo di ragazzi, abbiamo passato il Natale a fare la guardia. Ah bene, quindi a digiuno quasi, insomma in mensa. Praticamente a digiuno. Ora però si è scatenato una sorta di simpatia cameratistica tra di noi per il fatto di sentirci comunque degli eroi da soli a passare il Natale in caserma, che uno di questi ragazzi praticamente ci ha fatto dono di un cibo che gli era stato mandato direttamente da casa, da Napoli, ed era il capitone in umido. E lui lo ha condiviso con noi e devo dire che meraviglia di piatto che era, non potrò mai più dimenticarlo. Bene, anche se, secondo me è anche un fatto umano e di solidarietà molto importante, penso questo. Oltre, molte volte i piatti, è vero, sono anche eccellenti, sono buoni, sono gustosi proprio perché c'è anche qualche cos'altro dietro la cucina, c'è sempre un qualcosa o il sentimento. Nel tuo caso mi sembra di capire la mamma. Sì, la mamma e in questo caso anche l'amicizia, la solidarietà, il condividere comunque il destino di una situazione magari non simpatica, quella di essere costretti a passare il Natale lontano da casa, però ecco, questo piatto ci ha risollevato un attimo. Senti, ma tua mamma che origine è? Cioè di dov'è? Perché lei è di origine abruzzese. Quindi cucina abruzzese a casa? La cucina abruzzese, io poi sono di Ascoli Piceno, quindi in un certo senso ad Ascoli Piceno confluiscono le tradizioni culinarie sia delle Marche che dell'Abruzzo, è un punto importante. Quindi le olive fritte, sicuramente sì, l'oliva ascolana. L'oliva fritta, a Natale non manca l'oliva fritta oppure il cremino, insomma il fritto ascolano. Senti, ma girando il mondo, perché tu giri il mondo sicuramente, c'è qualche posto che ti ha particolarmente colpito, un piatto che ti ha particolarmente colpito, magari fuori dalla tua regione, fuori dell'Italia? Beh, durante l'ultima tournée in Giappone ho scoperto che il sushi, che io faccio sempre fatica a mangiare con le bacchette, infatti il pezzo di sushi mi cade sempre dentro il piattino di salsa di soia, ecco, dai giapponesi doc ho scoperto che si mangia con le mani. Sì, infatti loro mi dicevano, ma chi te lo fa a mangiarlo con le bacchette che cade sempre dentro la salsa di soia? E quindi ho fatto questa scoperta meravigliosa. E infatti è un piatto che si mangia per strada, in fondo è, diciamo, è uno street food, chiamiamolo così, per quel popolo, quindi un piatto importante, ma sicuramente giustamente da mangiare con le mani. Un'ultima cosa ti volevo chiedere: a Natale diciamo che ci sono molte musiche, molte canzoni che si sentono ripetere, ce n'è una in particolare che ti piace? Beh, io sono un tradizionalista, per me il Natale è legato a quelle canzoni, in particolare Astro del Ciel, Ad Este Fideles, cioè io devo sentire quelle. Il Natale fa parte del nostro DNA ed ha una struttura musicale prima di tutto. Ma ti è mai venuto così la voglia di scrivere, di comporre un qualcosa che avesse come ispirazione il Natale? Ma certo che no, abbiamo un patrimonio di melodie talmente emozionante, talmente meraviglioso che non c'è assolutamente, almeno dal mio punto di vista, non c'è bisogno di aggiungere altro. Bene, grazie. Io ti ringrazio, ti auguro non solo buon Natale, ma ti auguro anche sempre i grandi successi come stai ottenendo in tutto il mondo. Grazie e a presto. Grazie, grazie davvero. Arrivederci. Arrivederci. E ora andiamo in Sicilia dove c'è una grande tradizione gastronomica, specialmente una tradizione familiare. Andiamo da un importante produttore di vino, nonché di un'importante famiglia siciliana. Buongiorno a Lucio Tasca d'Almerita e buon Natale. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori, buon Natale a tutti naturalmente. Lucio, ma c'è un Natale particolare, un pranzo particolare così che ti è rimasto nel cuore? No, mi è rimasto nel cuore veramente un piatto che faceva la nostra amica americana che passò in tempi della guerra in campagna da noi a Regaleali, che fece per la prima volta che io vidi su un tavolo di Natale il tacchino ripieno con la marmellata e cose di questo tipo. Quello che fanno per il ringraziamento, insomma, gli americani. Esatto. E lei invece lo stabilì che era il pranzo di Natale corretto. E devo dire, è una tradizione americana che abbiamo sempre mantenuto nella storia della nostra famiglia. Ma io mi aspettavo da te che tu mi parlassi del grande cuoco di famiglia che avete sempre avuto, quindi qualche pranzo napoletano. Ecco, nella tradizione siciliana c'è qualche piatto natalizio? Ma io non credo che ci siano piatti natalizi nella tradizione siciliana, poi ti dirò di più che il Natale lo passo sempre in famiglia a casa mia, sai, come tu sai noi abbiamo una tradizione familiare di una cucina un po' complessa perché è un misto tra la cucina siciliana e la cucina francese, mio padre, mio nonno, mio bisnonno erano tutti dei grandissimi gourmet e si divertivano moltissimo a organizzare dei piatti speciali e quindi coniugavano questa cucina e facevano dei piatti assolutamente particolari, quindi una cucina super raffinata, super elegante, però per Natale c'è ormai questa tradizione di questo tacchino farcito con marmellate. Tra l'altro il vostro cuoco di famiglia sicuramente è stato uno dei personaggi più decantati della cucina siciliana. Sì, l'ho portato pure al Costanzo Show, figurati tu. E ha fatto la figurona perché si è presentato col suo bel fisico da cuoco. Era veramente una persona meravigliosa, un gran buon gusto, un grandissimo cuoco. Tu pensa che quella sera ce l'ho anch'io, a quella puntata del Costanzo Show, sì, esattamente. Ce l'ho anch'io. Senti Lucio, passiamo un po' al vino perché tu sei un grande produttore di vino. Ecco, in questi pranzi, diciamo, natalizi, a casa tua, si beveva esclusivamente regaleali oppure si attingeva anche qualche bottiglia francese? Ma ti dirò che nella storia mio padre è sempre stato un grandissimo estimatore del Dauphinot e del Châteauneuf du Pape. Niente male. Quindi insomma, quando non imbottigliavamo vino, certamente quelli erano i vini di riferimento, diciamo i vini francesi. Adesso devo dire anche noi facciamo degli ottimi vini, per cui i nostri pranzi sono proprio innaffiati dai nostri prodotti, dagli Chardonnay, piuttosto il Rosso del Conte, San Vincenzo, i prodotti che facciamo, il Cabernet Sauvignon, Nozze d'Oro. Questi sono i vini che normalmente usiamo e usiamo anche il nostro spumante sia per Natale che per Capodanno. adesso abbiamo anche lo spumante rosé, per cui abbiamo una gamma completa di prodotti che usiamo in tutte le feste, soprattutto nelle feste, diciamo, di Natale, di Capodanno, che sono quelle più importanti. Quindi non c'è più bisogno di acquistare in Francia, insomma, è tutto, no, però, autoprodotto. Qualche regalo ben venga. Ti posso dire, se vuoi, il menù di quest'anno a casa mia, che sicuramente ho tutta la famiglia a casa. Ecco, dimmi. Ti posso dire, secondi, un'orata di mare di 4 kg che ho già ordinato al nostro pescivendolo, e delle quaglie lardellate come seconda. Adesso ancora i primi non li ho decisi, però già mi pare una buona... Beh, insomma, una bella orata di mare di 4 kg al forno. Beh, specialmente di mare non d'allevamento è sempre più difficile da trovarsi, quindi mi sembra giusto. Invece il dolce finale? Ma sul dolce finale io non sono esperto in dolci, nel senso che mangio pochissimi dolci, però alla fine penso che prevarranno una buona torta di mele piuttosto che questi dolci tipici siciliani che sono molto pesanti, però buonissimi, tipo il buccellato. Il buccellato fatto in casa, che forse è più raffinato, è più elegante, meno pesante, è un dolce di Natale tipico. E poi la nostra società, che sono i cannoli, forse dovrei mangiare da regali. Facciamo questo grandissimo errore di dare come ultima cosa, prima dei vini dolci, di offrire i cannoli fatti da noi a casa. E la gente va via col pensiero più al cannolo piuttosto che al nostro vino. Il cannolo è veramente una roba eccezionale, fatto con la ricotta latte. Giusta. Con la ricotta giusta, la ricotta delle nostre pecore, che è fantastica, freschissima, per cui è difficilissimo trovare in giro per l'Italia. E noi commettiamo questo errore di dare il cannolo nel finale, la gente va via con il ricordo del cannolo e magari dimentica il nostro vino. Bene, no, ma il tuo vino non ha bisogno forse di questo. Grazie a Lucio Tasca d'Almerita e buon Natale. Buon Natale, grazie veramente. A te, buon Natale a tutti. Bene, continuiamo questo giro. Ora andiamo da un grande patrono, un grande ristoratore. Andiamo in una terra che sicuramente ha delle tradizioni. Sono sicuro che Antonio Santini, del ristorante Il Pescatore di Canneto sull'Oglio, ha dei ricordi magari di piatti particolari e di piatti della tradizione. Buongiorno Antonio e buon Natale. Buon Natale a tutti. Ciao Davide. Ciao, cosa ti ricordi? C'è hai un Natale particolare nella memoria, un piatto particolare? Ma sicuramente tutti noi abbiamo il Natale è una festa che si passa normalmente in famiglia, quindi tutto ciò che è legato alla famiglia, e in genere devo dire che io ricordo con affetto e con grande piacere i Natali fatti con i nonni, perché da ragazzini è la cosa che ti ricordi di più. Uno dei piatti che anticipano il Natale sono i tortellini di zucca, e la religiosità che c'è intorno alla vigilia di Natale è importante, almeno quanto il Natale. A Natale il piatto più importante, il clou, è rivestito dalla gallina bollita ripiena, servita con la mostarda di frutta. Ecco, la mostarda, parliamo un secondo della mostarda, perché sicuramente durante queste feste la mostarda, diciamo, arriva su molti piatti. Ecco, cioè, la mostarda mantovana, quanto mi risulta, è diversa dalla mostarda di Cremona? Certo, la mostarda di Cremona è fatta con tutti i frutti, la mostarda mantovana è fatta di sole mele, e lì sta la differenza principale. Poi ci sono le varianti sulle preparazioni, ma fondamentalmente la differenza sostanziale è questa. Ecco, le mele sono una mele particolare, c'era una specie... Le mele devono essere assolutamente acerbe, devono essere durissime, perché altrimenti poi quando vai a fare la preparazione, durante il rito della preparazione della mostarda, si rovina, si spapola, deve rimanere dura e consistente. Quindi si usano delle mele, ognuno usava le mele che aveva nella propria produzione, nel proprio orto. Comunque vanno bene le Grand Smith, vanno bene anche le Golden, comunque l'importante è che siano assolutamente acerbe. Ecco, tu hai ricordato i nonni, e i tuoi nonni avevano già, cioè era già un'osteria, l'osteria, certo, del nel pescatore. Nel 1930, quando il nonno è arrivato qui da un paese vicino, da Isola d'Ovarese, lui faceva il pescatore, andava a pescare nel fiume Oglio e la nonna stava a casa. Dopodiché ha cominciato a cucinare il pesce, a friggere il pesce e a prepararlo in altri modi che il nonno pescava. Da lì è nato il nome dal pescatore, quindi dicevano andiamo a mangiare dal pescatore. e poi ha continuato la mamma e il papà, che si sono sposati nel 52, e poi via via. Poi via adesso ai tuoi figli. Giovanni, Alberto e Valentino. Ecco, volevo sapere questo. Hai parlato di tortelli di zucca. Sì. Tortelli di zucca che sono veramente tipici del mantovano. Ma io ricordo tempo fa così di aver fatto, come posso dire, un'esplorazione sì, sulle carte ed altro, e ho visto che ci sono differenze tra comune e comune, addirittura tra villaggio e villaggio. Ah, certamente. I tortelli di zucca si fanno da Ferrara e fino a Cremona e poi raggiungono fino a Crema, ma a Crema ci sono i tortelli cremaschi senza presenza di zucca, ma fino a due comuni fuori Crema comincia già la zucca. Direi che ogni nonna, ogni mamma, ogni casa ha la sua ricetta ed è convinta e sicura che sia la migliore del mondo. Non è così perché ci si abitua a mangiare le cose che più sono legate alle memorie. Certamente i tortelli di zucca ideali non esistono, ma esistono i tortelli equilibrati. E da questo punto di vista è vero che ogni mamma, ogni nonna riesce a trovare un equilibrio proprio. Se mette più amaretto, come succede avvicinandosi a Cremona, o se toglie completamente tutto e fa solo con zucca e parmigiano e qualche altro elemento quando si avvicina a Ferrara, ma sempre si cerca l'equilibrio. La pasta deve essere sottile, tenace, consistente. Questo è un cambiamento degli ultimi anni, degli ultimi 20-30 anni. Un tempo al nord il concetto della pasta al dente non esisteva. Entrata nella cultura del nord anche il concetto della pasta al dente, noi facciamo sicuramente il riso al dente, ma la pasta si coceva molto di più, e si è cercato di lavorare anche sulla struttura e la consistenza della pasta all'uovo, che attualmente io trovo che un po' dappertutto è certamente migliore perché è più tenace e tiene molto di più la cottura. Ecco, l'ultima cosa ti volevo chiedere, tra l'altro volevo parlare un secondo dei tortelli cremaschi che hanno all'interno la frutta candita, quindi diciamo che c'è questo collegamento in qualche maniera. Ma volevo chiederti i vini, ecco, tu cosa bevi? Vabbè, a Natale il ristorante è chiuso, quindi oggi passiamo il Natale in famiglia. E berremo, di solito per tradizione, beviamo o uno spumante italiano, uno champagne per cominciare, e poi un grande vino rosso, un barbaresco, un barolo o un grande toscano, quasi sempre a vitigno sangiovese se toscano, e poi un moscato per il panettone, il pandoro con il budino e la crema. Bene, grazie Antonio, io ti auguro a grazie, te e famiglia buon Natale a tutti. E buon lavoro. Bene, continuiamo questo viaggio e ora andiamo da un straordinario cantautore che, lo confesso, io lo amo molto anche e soprattutto perché prima di fare questo mestiere faceva il capostazione, mi hanno sempre affascinato, quindi veramente un cambiamento davvero incredibile. Buongiorno a Gian Maria Testa e buon Natale. Buongiorno e buon Natale anche a voi. Andiamo da un piemontese, la prima cosa che voglio sapere da un piemontese, cosa le ricorda il pranzo di Natale? Le ricorda qualcosa in famiglia, un piatto in particolare, un ricordo di un Natale molto speciale? Ma dunque, inevitabilmente mi ricorda l'infanzia. Il Natale sembra una perfetta Madeleine di Proust. È vero. Riporta indietro. Io sono nato in una famiglia di contadini, affittava mio padre con mio zio, affittavano una cascina, di quelle cascine, sapete, con il caseggiato intorno a un cortile chiuso. E noi abitavamo da una parte del caseggiato e i miei zii dall'altra, e si faceva Natale un anno da noi e un anno da loro, certo, però sempre con lo stesso menù. E questo naturalmente sortiva una specie di effetto gara, perché quando i ravioli li faceva mia madre, pur essendo uguali a quelli che faceva mia zia, erano necessariamente un pochettino diversi. Quindi c'era il commento sull'anno precedente, insomma. No, non lo tenevamo, da buoni piemontesi ce lo tenevamo dentro il commento, però insomma il confronto c'era, ma era sempre, insomma, le due famiglie si radunavano, quindi tutti i cugini eccetera, ed erano sempre dei bei momenti, ovviamente. Ma oltre ai ravioli si ricorda gli altri piatti sicuramente, immagino. Sì, in genere c'era almeno un antipasto, quella era una campagna povera e quindi insomma non è che ci fosse da scialare, però a Natale, come spesso capita ai poveri, si mangia troppo e di più, insomma, ci si concentra e quindi si apriva in genere con il vitello tonnato, la cui qualità dipende molto da come viene fatta la salsa tonnata. Certo. E poi c'erano in genere i ravioli, anzi direi proprio sempre, e poi c'era quasi sempre il bollito, quasi sempre un bollito. Con i bagnetti forse? Sì, sì, sì, con i bagnetti verdi. Poi siccome all'epoca si facevano ancora i salami nelle cascine, che era una cosa un po' cruenta, ma insomma che produceva degli eccellenti risultati, allora prima del vitello tonnato in genere si mangiavano salumi, salumi fatti da noi, fatti in casa. Infatti c'era un'uccisione del maiale che avveniva ai primi di dicembre. È un rito, era un rito. Sì, sì, era un rito cruento, ma era un rito, sì. Partecipava tutte le due famiglie partecipavano. E poi si finiva con un dolce, quello cambiava sempre in realtà. Quello cambiava sempre. Ogni anno, quindi, a seconda della famiglia che si alternava, cambiava, insomma. Sì, il dolce era, diciamo, la variabile più seria. Quando lo facciamo da noi, mia madre faceva sempre il mascarpone dolce perché sapeva che a noi piaceva tantissimo e in genere si accompagnava con il panettone se c'era, ma non sempre c'era, con magari una torta, un pan di Spagna fatto in casa, una cosa così. Senta, Testa, lei è nato nella zona del Barbera o Barbaresco o Barolo? Io sono nato in realtà in una zona in cui di vigne non ce ne sono, perché qui la discriminante è il fiume Tanaro. Sì. E siccome io sono nato al di là del Tanaro, noi ci facevamo il vino ma comprando le uve. Compravamo delle uve Barbera perché costavano di meno. Avevamo a casa il tino per pigiare le uve, e la cosa interessante era che il vino cambiava ogni anno, non è, adesso abbiamo dei vini standardizzati, buonissimi, ma certo, insomma piuttosto standardizzati, invece lì era tutti gli anni era diverso, il vino era veramente un motore, anche diciamo di un veicolo di calorie all'epoca, quindi lo si beveva, io ho cominciato a bere il vino da piccolo, adesso sarebbe una specie di sacrilegio. Anch'io glielo confesso, mio nonno mi ha allenato da piccolo, quindi noi facevamo addirittura, mi ricordo che d'estate ci capitava, io non so, forse 8-10 anni, ci davano qualche volta a merenda la zuppa di vino. Io mangiavo il pane col vino e sopra lo zucchero. La zuppa di vino era pane imbevuto nel vino. Era straordinario, è straordinario. Fondamentalmente era così. Me lo ricordo. Ma sto parlando un po' della preistoria. Sì, mentre parlo mi rendo conto che parlo veramente di un altro secolo. Ma io le dirò che tempo fa mi è presa questa voglia, ho riprovato, però non era più quel vino di un tempo. Oggi il vino, come diceva lei, è un po' diverso, standardizzato, quindi non era più, diciamo, con i difetti di un tempo che forse lo facevano caratteristico. Oggi è sempre tutto uguale. Ma sì, adesso i vini sono tutti, per carità, eccellenti, c'è anche una specie di religione del vino che tutto sommato mi lascia abbastanza indifferente. Ovviamente apprezzo un buon vino, ma non apprezzo la standardizzazione e soprattutto con questa mania della barricatura. Ah, certo. si nasconde qualunque difetto. Un mio cognato dice che certe volte bevi un vino e sembra di rosicchiare un tavolino da notte. Ma ha perfettamente ragione. Guardi, io ho coniato per i vini in barrique una frase che è rimasta famosa: vini dei falegnami. Vini dei falegnami, sì, sì. Poi ci si è sbizzarriti, qui c'era. Sì. C'è un eccellente produttore, Bartolo Mascarello, che aveva grande, fatto un grande. Delle etichette per le quali... No, Barrique. Barrique, sì. E poi c'era anche un seguito. Non Berlusconi. Esatto. Che poi, io possiedo quella bottiglia. Anch'io. Possiedo quella bottiglia. Ma Bartolo era veramente un poeta, e fra l'altro sua figlia e sua moglie continuano una tradizione vinificatrice. Ecco, di chi non standardizza il Barolo, fanno veramente... Ha perfettamente ragione. Grazie, le auguro buone feste e buone grazie tournée. Grazie. Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo, Giacomo Buongiorno, Poretti. Auguri. Ciao Giacomo, ciao. Io ogni volta che ti vedo e ti sento mi viene sempre in mente quando tu mi hai raccontato che volevi fare il fornaio della tua bicicletta, che volevi... Era il tuo sogno. Quindi volevi portare anche il panettone, immagino. Ah, sarebbe stata una meraviglia portare il panettone. Senti Giacomo, ma c'è un Natale particolare nella tua memoria, magari anche da bambino, un ricordo speciale, un pranzo particolare? Beh, guarda, direi almeno due. Uno, forse il più bello, è quello è quello legato ad un regalo bellissimo, un fortino con gli indiani, avrò avuto 7-8 anni e ho passato tutto il giorno a guardare il fortino e non ho mangiato niente, quindi mi ricordo di aver saltato il pranzo di Natale, no? Quello ce l'ho indelebile, mentre i miei nonni continuavano, dai mangia, mangia, mangia, io non ho mangiato niente, mi sono cibato di soldatini. E poi innumerevoli Natali passati a casa mia con i miei genitori, adesso mio papà non c'è più, ma dove appunto preparava l'insalata russa, i salumi, il bollito. Chi preparava, tua mamma? Tutti e due, no? Mio papà e mia mamma. Mio papà era quello che faceva il risottino, perché comunque non doveva mancare neanche a Natale, ovviamente rigorosamente giallo, e mia mamma si occupava dei bolliti. Beh, quindi un bel pranzo sostanzioso. Un bel pranzo sostanzioso, di quelli che poi al pomeriggio alle 5 arrivavano i cugini, giocavi a tombola usando i rimasugli dei mandarini, no? per segnare i numeri sulla tombola, oppure i ghirigli delle noci, sì, dei Natali, dove la sera non mangiavi più, solo il brodino, capito? Certo, per digerire il tutto, ma magari mentre giocavi a tombola era rimasto qualche panettone o qualcosa da mangiare, da rosicchiare. Durante la tombola c'era immancabilmente il panettone, la frutta secca e i mandarini, era quello, no? Senti, ma la scrivevi la lettera da mettere sotto il piatto al babbo? No, perché vabbè, io ho 53 anni, da noi, almeno a casa nostra era così, era Gesù bambino che portava i regali, Babbo Natale, era una roba che in provincia è arrivato un po' dopo. E allora mi ricordo fino ai 6-7 anni, quando è esistita sta cosa, ci si svegliava e Buon Natale. E la mamma e il papà ci facevano trovare i regali. Adesso mio figlio ha 3 anni e mezzo, quest'anno ovviamente lui dettava e io e mia moglie scrivevamo la letterina per Babbo Natale, ma dopo un po' gli abbiamo detto che la birra era consumata, se no bisognava comprargli tutto un negozio. Senti Giacomo, ma invece i tuoi Natali, diciamo, più recenti, anche da attore, perché penso che molte volte, essendo in giro, magari uno passa il Natale non a casa. Ti è successo questo? No, devo dire che da attore no, ho passato, siccome nella mia vita precedente all'attore lavoravo in ospedale, ho passato tanti Natali di turno, no? O dalle 6 alle 2 del pomeriggio o dal pomeriggio, quello sì. Gli unici Natali che ho fatto lontano da casa sono stati quelli in ospedale quando facevo il caposala, l'infermiere. E quindi non mangiavi perché saltavi il pranzo? No, si mangiava perché c'era un pranzo particolare anche dalla mensa dell'ospedale e poi gli infermieri e i medici si organizzavano, se le condizioni lo permettevano si cucinava qualcosina di particolare o comunque il panettone col mascarpone non mancava, ecco. Senti, ma stai preparando qualcosa di nuovo? State preparando qualcosa di nuovo, qualche film? Sì, stiamo scrivendo la sceneggiatura di un film che faremo l'anno prossimo, che uscirà il Natale prossimo nelle sale, quindi adesso siamo a metà strada della scrittura. Senti, ma cosa ne pensi di questi film natalizi? A parte i miei i cartoni, il resto mi piacciono poco. Mi piacciono di più i film che escono un mese prima o un mese dopo del Natale. Quindi sì, sicuramente non i panettoni, si chiamano panettoni natalizi, forse esatto. proprio esatto. Per questo. A te piace il panettone? Tantissimo, perché poi ce la disputano panettone e Pandoro. È panettone, no? Un po', sai, Gimondi, Motta, certo. panettone, e poi come lombardo sicuramente vai sicuramente sul panettone. Ma hai un posto particolare dove compri il panettone? Allora, da un paio d'anni, te lo segnalo, forse faccio pubblicità, sbaglio, mi capita di passare da Gressonei e lì c'è un ristorante che te lo segnalo, si chiama Norcap. C'è questo ragazzo, Luca Marberti, che secondo me cucina da Dio e fa anche i panettoni lui, per cui sono passato di lì, ho fatto incetta di panettoni e sono buoni, li fa lui. Bene, grazie a Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo, se dico Giacomo Poretti forse qualcuno non capisce molto bene. Bene, io ti ricordo sempre in bicicletta, ti bene, ricordo sempre in bicicletta con il pane sul cestino. Sul cestino. Bene, ciao Giacomo. Tanti auguri. Buon Natale. Auguri a tutti. Buon Natale. Bene, ora da Giacomo Poretti passiamo a Firenze, passiamo a un grande patron che tra l'altro ha scritto un libro che è uscito proprio in questi giorni ed è un libro molto ma molto interessante. Io l'ho appena sfogliato, ma devo dire che Fabio Picchi, buongiorno Fabio e buon Natale. Buon Natale a te David. Fabio Picchi del Cibreo è sempre così sulle sue cose, sempre non solo preciso ma sempre molto creativo, e io so benissimo che se gli chiedo se si ricorda un Natale particolare lui immediatamente mi risponde con qualcosa di straordinario. Sì, è vero, c'hai ragione. Mi ricordo il Natale di 11 anni, indimenticabile. Trovai sotto l'albero, un albero fra l'altro gigantesco, una bicicletta incredibile, verde fiammante. Presi questa bicicletta e 1.000 lire in tasca che mi avevano regalato i miei nonni, uscii e vidi un signore molto molto povero che credeva all'elemosina. Credeteci, lo dico con un vanto non attuale, ma di quel ragazzo che ero a 11 anni. Fermai subito la bicicletta e detti le 1.000 lire al cosiddetto povero, così si chiamavano ancora allora, e credetemi che era proprio una voglia di condivisione, era una voglia di poter ringraziare quel giorno insieme a qualcun altro. Ecco, ma sicuramente tu hai tanti ricordi straordinari dal punto di vista gastronomico, perché tu hai anche, avuto... Anche, caro, hai avuto, anche. Mia madre non ci ha mai fatto mancare sotto l'albero di Natale 8, 9, 10 vassoi di crostini. Tu dirai, questo è ovvio, a Firenze si fa sempre i crostini con i fegatini, col soffritto di carota, sedano e cipolla soffritto nel burro, con le acciughe, no? Con i capperi, ma mia madre a Natale fa sempre bollire un cappone, allora poi quando mette i crostini, l'impasto dei crostini sul pane ben tostato, poi lo ribagna proprio ammollandolo con un cucchiaio del grasso della bollitura del brodo del cappone. Una droga. Ecco, ma sicuramente, io sapevo che tu eri abituato molto bene, perché mi hai sempre detto che è stato tuo padre che vi caricava tutti in macchina e vi portava a provare i ristoranti, quindi non poteva essere trendy. Ma i tuoi Natali ora come sono? I miei Natali adesso, devo essere sincero, abbiamo una famiglia molto molto molto molto larga, per cui per poterci organizzare e darci poi un punto d'incontro, incredibilmente rinunciamo alla vigilia, rinunciamo al pranzo di Natale e ci ritroviamo tutti insieme, siamo veramente tanti, io ho 4 figli, quindi 4 figli, fidanzate, fidanzati, consuoceri, genitori, siamo veramente tanti, ci ritroviamo il 25 sera, anche perché facendo il ristoratore veniamo da giorni faticosi, allora il 25 mattina proprio un attimo di raccoglimento e ci riposiamo, e poi il 25 sera ci scateniamo in questo pranzo. Poi sai, abbiamo una linea partenopea ormai in famiglia, per cui ti puoi immaginare, mischiando i fiorentini ai napoletani, succede che arrivano le insalate di rinforzo, che arrivano le genovesi, che arrivano le vassoiate di babà, che arrivano le vassoiate di sfogliatelle. Insomma, i napoletani sono dei provocatori e noi fiorentini non da meno. Rimani con noi perché continueremo ora, dobbiamo fare uno stacco, un secondo, perché ti voglio chiedere alcune cose su il pranzo artusiano del Natale. Bene, stavamo parlando con Fabio Picchi del Cibreo di Firenze e stava raccontando appunto il suo Natale e alcuni piatti di Natale particolari. Ma io voglio chiedere a Fabio, visto che ogni territorio italiano ha le sue tradizioni del pranzo natalizio, se Firenze e la Toscana in particolare hanno anche loro un qualcosa che viene ripetuto a buona parte delle famiglie, o se si rifà al pranzo artusiano di Natale, che è quello forse più gettonato. No, Firenze non ha una sua particolarità natalizia. Se poni questa domanda alle varie famiglie fiorentine, proprio emerge i must, no? le cose migliori che nella famiglia vengono fatte anche durante l'anno. C'è chi ti risponderà cibreo, chi ti risponderà collo di pollo ripieno, chi ti risponderà la galantina, o chi ti risponderà addirittura i tortellini in brodo. Certo, perché sono tradizioni che arrivano da altrove, sono state ormai assuefatte così. E sul dolce invece, sul dessert? Ma sul dolce idem, i fiorentini hanno un'unica fissazione in questo periodo, che è il castagnaccio, ed è molto divertente perché c'è chi sa fare il castagnaccio e c'è chi non lo sa fare, e allora nasce una diatriba cittadina, cioè proprio Guelfi e Ghibellini anche in questo. Ognuno si riferisce al castagnaccio altrui definendolo ma questo è una pattona, già il suono del nome ti chiarisce. Rimane nello stomaco, insomma, non si digerisce, esatto, così. Esatto, tutto il castagnaccio va misurato in una misura minima, il castagnaccio deve essere proprio sottile, carico di generosi pinoli, uvetta, rosmarino, sale e ovviamente l'olio. Se uno sbaglia però diventa troppo secco, se uno sbaglia nell'altro senso si alza e appunto diventa una pattona. Mio padre scuoteva la testa in quei casi e sorrideva. Ecco, ma un abbinamento col castagnaccio, cos'era, il vinsanto? Beh sì, assolutamente, non inzuppato, fiumi di vinsanto, guarda che poi... I nonni facevano delle magie ogni tanto, togliendo dai tegoli le bottiglie nascoste del vinsanto, e tutto questo esiste ancora poi. Ecco, tu hai citato i tortellini, nella tradizione artusiana ci sono ovviamente i caplet, io sono romagnolo nato a pochi chilometri da Forlimpopoli, per cui chiaro, mi sposo bene, ma il buon Artusi ha sciacquato panni in Arno, è rimasto a lungo, e tu non pensi che buona parte anche di questa tradizione sia stata un po' mutuata anche dai assolutamente, fiorentini? Assolutamente, ma se tu pensi che negli anni 50, 60, 70 lui chiuse quando io aprii, ci fu proprio uno scambio, io avevo fatto il solco da ragazzino, 14enne, frequentavo l'antico fattore, prima ancora il Coco Lenzone, dove c'era Luigi, cuoco fiorentino straordinario, ribollita inimitabile, pappa al pomodoro, ossi buchi, polpettine di filetto, ma la vera verità è che Luigi era di Forlì. Infatti si chiamava Luigi Tassinari. Esatto, ed era un cognome romagnolissimo, quindi sì, è vero questo. Grandissimo cuoco. Un po' si è persa questa abitudine. Sicuramente lui passava per un ristorante, il Coco Lenzone passava per un ristorante fiorentinissimo. Assolutamente. Ecco. E faceva cucina fiorentina, no? Poi di fatto l'osso buco era una bandiera della nostra città, no? E tra l'altro c'è un dolce che viene fatto in questo periodo ad Agrigento, nell'unico posto che viene fatto in Italia, nel convento di San Giorgio, ed è il couscoussou. Il couscoussou è un couscous dolce che l'Artusi riporta. La storia è bellissima perché tutti identificano questo piatto, diciamo, con la religione musulmana per il modo con cui dovrebbe essere mangiato. In realtà l'Artusi racconta che ha imparato questa ricetta quando lui si trasferì da Firenze a Livorno in una casa di ebrei, quindi incredibile questo giro che dà l'idea di questo piatto, come può essere così, con quali giri del mondo può aver fatto, specialmente di porti, perché sicuramente il couscous è fatto ovunque dove c'era un porto. Bene, io ti ringrazio Fabio, ti ringrazio e ti auguro buon Natale, e continua sempre a scrivere i comandamenti della cucina come hai fatto recentemente. Senz'altro Davide, io ti ringrazio, e se però mi fai un regalo di leggerlo per davvero il mio libro, perché il tuo giudizio severo mi sarebbe veramente utile. Va bene, grazie, a presto. Grazie a te, ciao. Bene, caro. Bene, ora andiamo da un famoso giornalista che è anche produttore di vino, ma oggi parleremo anche di vino, ma voglio parlare anche di cibo. Buongiorno Gad Lerner e buon Natale. Un buon Natale a voi, tanti auguri, anche se, come dire, mi sento davvero un po' pesce fuor d'acqua. Sì, infatti. Il Natale dell'ebreo, sì, in questo caso, a quali tradizioni può attingere? Citavi il couscous, tornese, potrei dirti che quello era un luogo, quel porto, dove arrivavano non soltanto dal Nord Africa ma anche dal mio Medio Oriente, dal mio Libano natale, dei vascelli pieni di ricette oltre che di personaggi curiosi che andavano poi alla corte dei medici. Ecco, tu Gada ovviamente non celebri il Natale, però ma lo celebro, come, grazie all'ospitalità felice degli suoceri e di tutti. Insomma, vivo in Italia da quando sono bambino piccolo, quindi spilucco e approfitto. Ecco, però io a te volevo proprio chiedere questo. Ti è rimasto impresso un piatto che tu hai mangiato ovviamente da quando sei in Italia, da quando sei bambino, in qualche casa, da qualche amico, da qualche parente? Direi che il mio Natale più trionfale è quello appunto a casa dei genitori di mia moglie in quel di Genova, dove adoro il capon magro, ricetta difficile da fare in casa, è piuttosto rara. Anche lunga. È lunga, infatti avrei potuto citare ovviamente il tacchino farcito, ma sul capon magro c'è un lavoro tale che ci si toglie il cappello e lo si mangia giusto appunto solo a Natale. E poi invece c'è quell'investimento bancario, come scherzano giustamente i genovesi, necessario alla fase dei dolci, dove accanto al panettone genovese molto più compatto di quello milanese, assai diverso come certo. Pastosità, ci sono, e per quello parlavo di investimento bancario, i preziosissimi canditi di Romanengo. È frutta candita straordinaria, è vero. È un lavoro, anche quello credo complicatissimo, non l'ho mai trovato altrove. No, lo puoi spiegare meglio tu. No, tra l'altro non solo, ma anche il cioccolato di Romanengo è straordinario. Ma l'origine è di nuovo nel porto, nella città dei commerci e dei natanti che portavano laggiù anche delle frutta esotiche, delle spezie e la tecnica della conservazione. Infatti il porto è stato ovunque, c'è un porto, sicuramente sono arrivate materie prime da altri paesi, da altre nazioni, e c'è stata una contaminazione, che la cucina è continua contaminazione e continuerà ad essere continua contaminazione. Forse questo è proprio il suo bello. Bene, un'ultima battuta, caro Gad, tu che sei un ottimo produttore di vino, un ottimo produttore di Barbera, credo che a Natale la Barbera vada veramente a fiumi, perché con il bollino e sicuramente anche con il brodo e i cappelletti va bene, magari un cucchiaio di Barbera dentro c'è la scodella. Una scuola di pensiero che ce la mette direttamente dentro un cucchiaio, perché no, anche se poi bisogna smettere di considerarla il vinaccio con la schiuma. No, e beh, ormai sapere che ormai è un vitigno dal quale si può trarre, con la sua acidità e con le sue caratteristiche particolari, dei profumi. Ma io credo che ormai nessuno lo possa sul livello più di vitigni più nobili e famosi. Sicuramente ormai nessuno lo mette più in dubbio, perché ci sono stati dei risultati straordinari. Grazie a Gad, grazie, a presto. Auguri. Bene, ora voliamo in Guadalupe, andiamo da una campionessa, anzi da una pluricampionessa, da Valentina Vezzali. Buongiorno alla Vezzali. Buongiorno a tutti! Buon Natale! Buon Natale a voi! Si ricorda un Natale particolare a tavola? Ma guarda, per me tutti i Natali sono particolari a tavola, perché avendo una mamma che non cucina bene, ma una mamma che secondo me potrebbe essere campionessa olimpica in cucina, ecco, tutti i Natali sono speciali, perché si mangia veramente tanto e bene. Ma quali piatti in particolare a Natale? Ma mia mamma è emiliana di Reggio Emilia, quindi a tavola a Natale sicuramente non mancano i cappelletti in brodo fatti da lei a mano, sfoglia fatta a mano, con tutto l'impasto fatto da lei, e bollito, tortelli di erba, tortelli di zucca, e poi il bollito e i dolci caratteristici che fa mia mamma, e poi insomma non si finisce più di mangiare. Valentina, ma cosa si beve? Si beve buon vino marchigiano o emiliano? Ma guarda, una bottiglia di Lambrusco, visto che insomma il piatto è caratteristico emiliano, c'è sicuramente, però c'è anche del buon vino marchigiano, un bel rosso conero, ma ci mettiamo anche un bel verdicchio, anche se non mangiamo pesce. Beh, vedo che te ne intendi, ma ti piace il vino quindi? Ma devo dire che sto iniziando ad apprezzarlo molto e devo dire che secondo me il vino italiano è uno dei vini più buoni al mondo. Poi, avendo il marito napoletano, ho imparato a conoscere anche un po' la falanghina. Poi mio marito ha giocato anche in Sicilia, quindi c'è il non mi viene il nome, il Nero d'Avola, insomma, quindi beh, io sto iniziando a degustare un po' i vini di tutta Italia. È una buona cultura sicuramente. Senti, un'ultima battuta: panettone o Pandoro? Panettone, però senza canditi, sì. E Pandoro. Bene, grazie, io ti auguro tanti successi anche in futuro e un buonissimo Natale e a presto. Grazie mille, auguri e un felice Natale a tutti. Grazie, ecco, abbiamo finito questo viaggio con i nostri personaggi che ci hanno raccontato il loro Natale e i loro piatti ed ora non mi resta che augurarvi di nuovo buon Natale, buon appetito, buoni piatti e magari non esagerate, state attenti e poi non prendete la macchina, mi raccomando, perché la polizia stradale è pronta con l'etilometro, quindi fate molta ma molta attenzione. Buon Natale a tutti, quindi, da Davide Paolini.